tagliatino, aglio e prezzemolo, una bella insalata e via. Mi voglio tenere leggero. E a chi male lo cavallo? Su che andiamo? La musica. Italia. Greco Italia. Greco Italia. Greco Italia. Italia Greco. A me volte. Vabbè, stavo parlando fra di loro, vai. Troppo bassi e non ci sento. Allora, voglio accesa la mano, ho sentito questo molto forte, la giro. Chiaro chiaro, pulito pulito è questo. Sì, sì, questo è pulito. E sta facendo cosa al computer, dai, rimango in ascolto se c'è qualcuno nel frattempo. Ci sentiamo qualche ciao ciao. Ciao ciao ciao, vabbè.